voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Franco e Sandro Costa, arredamento per locali e concept store in tutto il mondo. Di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi parte dalla Spezia, in Liguria, e riguarda un'azienda giovane, nata nei primi anni Ottanta, che in poco tempo è riuscita a farsi un nome nel mondo esportando la propria visione di Made in Italy. Stiamo parlando di Costa Group, specializzata nel settore del food entertainment e che si occupa di progettare l'arredamento di ristoranti e bar, così come quello di punti vendita e locali pubblici brandizzati, ossia di alcuni marchi di fama mondiale. A raccontarci com'è iniziata quella che lui stesso ha definito un'avventura è Franco Costa, attuale amministratore delegato. Allora, Costa nasce 35 anni fa e il fondatore ero io che avevo 17 anni. E niente, praticamente ho iniziato vendendo forni e macchine e farina. Andavo a scuola, al mattino andavo a vendere la farina, è iniziata così l'avventura. Poi a un certo punto ho cominciato a pensare che i panettieri potessero avere dei locali più belli. In quel momento c'era qualche cosa in giro, cominciavo a vedere. Ho cominciato con alcuni compagni di scuola a dire facciamo qualcosa, e è partita con i primi locali. Siamo partiti praticamente in questa avventura e dopo qualche anno è subentrato mio fratello, che è chiaramente molto più giovane di me, è entrato lui, e dopo siamo andati avanti assieme sino a oggi, insomma. L'idea di creare solo arredamento per locali pubblici però lascia presto spazio a quella di una nuova concezione di ambiente condiviso, dove i clienti possano godere non solo del cibo, ma anche di tutto quello che li circonda. Tanto sono nato in un ristorante, per cui sino a 14 anni ho dormito nella brandina del ristorante di mia madre, quindi i primi lavori erano sostanzialmente la classica piccola officina con quei 4-5 ragazzi che mi avevano seguito, e facevamo qualche piccola panetteria. Dopo c'è stato un momento di grande cambiamento, ora non ricordo esattamente l'anno, ma metà anni 80, a Firenze è capitata un'opportunità di fare un grande locale dietro Piazza della Signoria, all'epoca con i conti di Verazzano, con il vecchio signor Capellini e col cavaliere, e lì all'epoca lui si era aperto un mondo, perché mentre parlavamo di panetterie eccetera, lui ha cominciato a parlarmi il pane inteso come arte, quindi coinvolgendo l'Accademia della Crusca, coinvolgendo il mondo, la storia della cultura italiana, quindi l'Accademia della Crusca, le pale, tutta questa storia qui, e lì è iniziata questa avventura. Ho cominciato a pensare che non bastava il pane, cioè il pane era importante, ma se si univa all'arte, alla storia, alla cultura e ci inseriva nei contesti delle città in maniera nuova, avremmo avuto una strada più aperta e più innovativa. Abbiamo seguito col filone, è andata bene, e oggi i nostri posti molte volte stravolgono i locali, ma la filosofia è quella di conservare quello che c'è, quindi noi siamo alla ricerca e recupero di tutto quanto c'è. Dai 4-5 dipendenti dei primi anni 80, oggi lavorano in Costa Group oltre 120 persone, alle quali bisogna aggiungere un indotto molto ampio costituito da un altro centinaio di lavoratori. Caratteristica fondamentale dell'azienda è la totale progettazione e realizzazione del locale in sede, dallo studio del format alla simulazione presso la fabbrica, per arrivare al montaggio del locale e all'assistenza successiva al cliente. Tutto viene montato, attenzione, noi partiamo dall'idea, dalla progettazione, molto spesso è diretta interno all'azienda, molto spesso invece viene affidata a studi di architettura che noi individuiamo e che consigliamo noi al cliente. Comunque, in un modo o nell'altro, il risultato è che noi montiamo l'arredamento all'interno della nostra fabbrica, il cliente da qualunque parte del mondo provenga viene a visitare il locale, lo approva, lo smontiamo e lo montiamo in qualunque parte del mondo. L'azienda è guidata dai fratelli Franco e Sandro Costa, che insieme sono riusciti a imporre il loro nome nel mondo grazie alla presenza costante in fiere e manifestazioni di settore in Italia e all'estero. Una strategia che è risultata lungimirante. Poi sicuramente gli ultimi anni alcune operazioni ci hanno portato enormemente a fatturare di più. Insomma, noi pensate solo che a Expo noi abbiamo 51 ristoranti montati, per dire un altro, cito altre cose, ma gli Italy ad esempio sono nostri clienti da sempre. E quindi con Farinetti abbiamo sviluppato un mare di cose interessanti, poi che ne so, operazioni, ora stiamo montando a Porto Rico una cosa enorme, e in questi giorni siamo nelle Filippine con 4 locali, siamo in Islanda con 2, e grandi clienti possono avverare, so, Lind, potrei annoverare Ferrero, potrei annoverare Cioccolati Italiani, potrei annoverare Rana, potrei annoverare Barilla, gli ultimi 3 a New York e così via. Insomma. Ad oggi l'azienda ha realizzato oltre 5.000 allestimenti tra ristoranti, bar e concept store in tutto il mondo. E mentre all'inizio arredava un locale al mese, adesso il ritmo è di 1 al giorno. Ciò nonostante, anche in Costa Group non sono mancati dei momenti di difficoltà, come ricorda l'amministratore delegato. Soprattutto nel momento in cui si voleva crescere, si pensava di crescere, e all'epoca devo dire che sono stati momenti difficili, gli anni 80, gli anni 80, quando all'epoca i clienti volevano fare, molto spesso li aiutavi firmandogli i patti di riacquisto, insomma, del leasing, ecco, qualcuno di tutti questi, qualcuno anche non pagava, insomma, quindi ci sono stati momenti molto difficili. Poi fortunatamente l'arrivo di mio fratello, che invece è molto più determinato sui soldi, molto più preciso, molto più attento di me, sicuramente ha messo in riga le cose. Oggi noi siamo un'azienda che ha insolvenze minime, proprio molto piccole, quasi nulle. Insolvenze o mancati pagamenti da parte dei clienti che hanno influito, oltre che sul fatturato, anche sul rapporto dell'azienda con le banche. Inaspettatamente, invece, la crisi economica mondiale, iniziata nel 2008, non ha avuto un impatto negativo sui bilanci di Costa Group, anzi, è stato un'opportunità di crescita. Il rapporto con le banche ora è idilliaco, nel senso che ora è buono. Stati momenti dove le banche chiaramente ci hanno un po' compressi, ma siamo usciti perché siamo sempre stati dei grandi lavoratori, quindi sia noi che i nostri operai hanno sempre creduto nel nostro operato, e noi non abbiamo mai avuto un'ora di sciopero, non sappiamo cosa sia la cassa integrazione, da noi si è sempre rispettato e pagato chi lavora con noi, e questo ha permesso comunque di non avere grandi momenti di crisi. Fortunatamente commercialmente l'azienda ha retto bene, quindi noi abbiamo sempre creduto all'estero, quindi l'ancora di salvataggio è sempre stata. Gli ultimi anni sono stati in crescita, quindi non male, nel senso che poteva andare peggio, e noi abbiamo invece incrementato enormemente sia sul fatturato sia nei rapporti, anche nel contenimento dei prezzi, delle lavorazioni, eccetera. C'era crisi, si doveva, anzi, io credo che sia stata molto positiva, perché ha portato a ragionare, a vedere il mondo in maniera diversa, e quindi a usare materiali nuovi, a confrontarci con esigenze nuove e anche creare stili nuovi che hanno permesso di dare quella manualità di cui noi italiani siamo maestri. E quindi credo che se non ci fosse stata la crisi forse sarebbe stato peggio, almeno per noi. L'ultimo fatturato dell'azienda, chiuso a dicembre 2015, ha superato i 26 milioni di euro. Il mercato estero incide per il 60% e si distribuisce più o meno in tutti e 5 i continenti. Raggiungere questi traguardi è stato possibile solo grazie a importanti investimenti. Beh, gli investimenti per noi sono fondamentali. Lei pensi che solo in ricerca noi abbiamo le persone fisse tutto l'anno in giro per il mondo a cercare di individuare materiali, fare ricerche costanti. Le attrezzature, lei pensi che noi viviamo in un'area dove non c'è niente al di là dell'industria militare, quindi non abbiamo una storia di falegnameria, non abbiamo una storia di nessun tipo. Noi abbiamo fatto un polo tecnologico che è nostro oggi, dove abbiamo a La Spezia, nell'entroterra di La Spezia, anzi nella valle più povera della città, dove noi abbiamo creato il laboratorio di marmo, ma anche la vetroresina, ma anche il ferro, ma anche il legno, e praticamente un tutto che ogni reparto fa il suo lavoro, poi viene convogliato in una sala di simulazione, il cliente arriva e lo vede. E questo ha permesso di fare una cosa che sarebbe stata impossibile replicare forse in altre zone d'Italia, dove c'era ad esempio una grande maestria di falegnameria, ma che non si pensava che per fare un mobile oggi non si può pensare che basti solo la falegnameria. Quindi è un insieme di cose, noi non avendole, non potendole reperire sul territorio, ce le siamo create. Per cui alla fine ci siamo trovati a creare un mercato nuovo, che è quello del prototipo. Cioè da noi nascono i prototipi di moltissime industrie italiane, che poi molte diventano catene, però nascono da noi. Non solo investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche nei dipendenti, fedeli all'azienda da anni e su cui Costa Group ha deciso di puntare per far conoscere il proprio nome all'estero. Noi non abbiamo venditori esterni, tutto nasce all'interno dell'azienda. E quello che tengo a dire è che sono molti dei nostri commerciali erano quelli che una volta facevano i tecnici, i geometri, gli architetti, oggi sono quelli che rappresentano l'azienda nel mondo, quindi sono i ragazzi che sono cresciuti e a cui abbiamo dato uno spazio e che hanno ricambiato con successo. L'attenzione nei confronti delle persone, oltre che per i numeri, ha dato modo a Costa Group di sviluppare anche due progetti di cui Franco Costa, che ci sta raccontando questa storia, e il fratello Sandro, sono particolarmente fieri. Sono due le cose di cui sono orgogliosissimo. Una è la nascita di Local, che abbiamo creato assieme all'Università Gastronomica di Pollenzio, che ha fatto seguito, per assurdo, a Mercato del Duomo di Autogrill, che abbiamo sviluppato assieme all'università, e poi dopo abbiamo creato questo Local, che è fatto dai ragazzi dell'università, che è il primo negozio gestito interamente dai ragazzi di Slow Food all'Università di Pollenzio. È una roba molto bella, perché è un mondo veramente che capisci che in questo paese ha ancora grandi speranze, vedendo quei giovani lavorare e capisci tante cose. E un altro appunto che mi piace molto, in questi giorni ha inaugurato qualche mese fa a Tripoli in Libia un locale nostro che sotto le bombe in questi giorni sta vendendo quella che è la gastronomia italiana, quindi dal gelato, la pasticceria, la ristorazione, tutto sotto le bombe, fuori si sparano e lui tranquillamente imperterrito vende il prodotto italiano. Il locale, per assurdo che sembra un'ironia, ma si chiama La Dolce Vita e ha aperto a Tripoli, che è una cosa incredibile. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.